Guardi, che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Sgarbi una volta, durante una diretta televisiva, ha fatto una scorreggia spaventosa, hanno fermato subito la trasmissione, perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più. È una cosa, guarda. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Basteranno pochi anni, soltanto poche ore, per fare un mondo migliore. Un mondo dove tutti saranno perdonati, chi ha vinto e chi ha perduto, vedrai, si abbraccerà. Prima Prodi, poi Monti, poi Letta, l'hanno tenuto in piedi il gruppo Bilderberg, cioè i grandi. Cioè i grandi finanzieri, banchieri, sionisti internazionali che cercano di fare dell'Italia, che cercano di fare dell'Italia da prendere tutto il buono dell'Italia. Questo è semplicissimo, lo sanno tutti. Quindi Letta sono degli stipendiati del gruppo Bilderberg. Voi siete gli italiani, è con voi che noi vogliamo combattere, non con quei pezzi di merda che sono lì alla regione. E vincerà. Ma l'italiano è troppo coglione per fare le rivoluzioni. Possiamo... Beh, questo però è un segnale, tanta gente. Ma questo qua è un segnale troppo debole, bisogna prendere i forconi davvero, bisogna prendere in mano i bastoni e andare a Roma e bastonarli tutti, buttarli fuori dalle bale tutti. Alla fine vedrai, vincerà. E basteranno pochi anni, soltanto. Ecco come si giustifica Calvani, uno dei leader dei forconi. Caro Parenzo, la Jaguar non è mia, caro parassita politico. Assolutamente la Jaguar non è la mia, quindi del signor Walter Dell'Urto. Non possiedo macchine perché questa situazione disastrosa mi impedisce di farlo. Quindi mi stanno, non ho la possibilità di esportarmi nel paese perché non ho i soldi. E quindi grazie a tutti gli italiani che mi offrono un viaggio. Ah, chiaramente questo è un argomento di punta per un parassita come quello. La Jaguar, la macchina non ce l'ho e la gente mi porta perché gente come lei, caro parassita politico, mi ha distrutto a me e a tutti gli italiani. Siamo più tardi! Vedrai, si abbraccerà. La, la, la. Questo Calvani, ma una delle notizie del giorno. Io caro ho paura, Parenzo, dimmi, chi io hai paura dico, di chi? Poi ne parleremo. Io ho paura di questa gente. Paura, paura. L'amore alla fine ha vinto. Una delle notizie del giorno qual è? Beh, ce l'ha fornita l'altro giorno uno dei sindacalisti della polizia, un tale Maccari. Il quale dice: ho denunciato. Te la ricordi la ragazza Notab? Per molestie. Sì, come no. La ragazza Notab che baciò il casco del poliziotto per prenderlo per il culo, poi venne da noi, la intercettammo per telefono e ci disse che voleva appendere tutti i poliziotti a testa in giù come a Piazzale Loreto, no? Come dimenticare parole di pace come quelle? Certo. Quella ragazza dal nome nobilastro francese De Chiffre, una cosa del genere. Ma questo sai? No, perché poi bisogna sempre vedere da dove vengono queste non persone. Questo non comunque sappiamo. Non lo sappiamo. Cosa ha detto Maccari? Maccari ha detto che l'ha denunciata per violenza sessuale qui alla Zanzara, violenza sessuale nei confronti della gente. La tipa che ha baciato il poliziotto sul casco, lì, ha dato quel caso. Cosa farebbe lei? No, l'ho fatto, l'ho denunciata. Perché cosa? Uno è un oltraggio. Poi? E lei adesso sembrerà strano, ma anche violenza sessuale. Perché se io adesso vengo lì a lei, la bacio sulla bocca e lei non vuole, cosa pensa che sia il reato? Se un poliziotto si togliesse il casco non per fare la marchetta, ma per baciare un manifestante così a caso, sarebbe fuori la terza guerra mondiale, si torna. L'amore alla fine ha vinto. Allora, è una buffonata, diciamo la verità, è una buffonata. Io lo dico subito a scanso di equivoci, altri reati ci possono stare quando vengono commessi, ma insomma, il reato di è una provocazione giusta. è interessante. Che vuol dire provocazione giusta e interessante? È una bella provocazione quella che ha fatto il sindacato, il sindacalista della polizia. È giusto, ha fatto bene a denunciare. È chiaro che magari non ci crede neanche lui della violenza sessuale, no? È evidente. Ma ha voluto segnare il comportamento di questa qui. Ha fatto molto bene a denunciarla invece. Visto qualche manganello oggi alla Sapienza, finalmente qualche manganello usato bene. Infatti ti sento pericolosamente eccitato. Usato bene, vai piano. Dico solo quello, qualche manganello usato bene. Berlusconi dice che se lo arrestano in francese ci sarà la rivoluzione. Bah. Dans moi je suis sûr qu'ils ne peuvent pas faire parce que sinon il y aura una rivoluzione in Italia. Non lo possono fare, altrimenti ci sarà una rivoluzione. Intervista a una radio francese, Europe 1. Ora, te lo ricordi quello Casalino, no? Rocco Casalino. Sì, Grande Fratello. Grande Fratello, è adesso stato portavoce dei Five Stars. No, è attualmente uno dei rappresentanti dei Five Stars, di Grillo in Parlamento. Signor Casalino, non perché sta la Grande Fratello, per carità, però mettiamoci anche questo, un ex del Grande Fratello, signor Rocco Casalino, non mi sta antipatico, non lo conosco nemmeno, a parte il fatto che ci rifiuta ogni intervista con questi dei 5 Stelle, ma ce ne sbattiamo i coglioni. Dice che Maria Novella Oppo e Merlo non sono giornalisti, cioè secondo lui, questi due non sono giornalisti. Sentiamo. Cioè, secondo lei Francesco Merlo non è un giornalista? No, non sono giornalisti se non raccontano la realtà, ma non mi inquadro. Nemmeno la Oppo è una giornalista secondo lei? Scrive per un giornale di partito, sono militante di partito che scrivono. Quindi Merlo secondo lei è un militante di partito, di quale partito? Militante del PD che scrivono. PD, Merlo. No, la Oppo dicevo, parlavo della Oppo. Ma tu ti rendi conto a che livello siamo arrivati? Sì, siamo arrivati a livello che Rocco Casalino dice che Merlo non è un giornalista perché dice cose non vere, eccetera. E l'altra è una militante di partito. A me non me ne frega un cazzo poi. Sai di, che è anche un po' di difendere colpa tua i giornalisti, questa. No? Perché tu li hai votati. Ma che c'è? È anche un po' colpa tua se questa gente è salita nella nave, nella plancia di comando, nella cabina di comando. È anche un po' colpa tua, un po'. Dai, un ma po'. Non si può fare come una cosa tutti del quelli genere. Che l'hanno votato, e ho capito, però ce li avete. Non è la pira quello, non è Togliatti, non è De Gasperi, non è neanche Almirante, hai capito? Questi che hai mandato in Parlamento col tuo voto. Gianrusso, senatore 5 Stelle contro Faraone, sentiamo. Vergognati, te ne devi andare, semplicemente perché hai incontrato una volta uno che poi si è rivelato un mafioso. E basta, io glielo dico qua e lo dirò alla prossima riunione. Faraone, te ne devi andare alla commissione antimafia, non ci puoi stare. Chi è andato in quei quartieri a chiedere il voto a persone come Bassettone, che addirittura ti hanno anche valutato come inaffidabile gli stessi mafiosi, ma figuriamoci, non hai le qualità morali per stare seduto in commissione antimafia a sentire i veri eroi che rischiano la pelle. Vergognati Faraone, vergognati. Per fare un mondo migliore, un mondo dove tutti. Ma è con noi uno dei leader del movimento 9 dicembre, non ama essere chiamato leader dei forconi, Lucio Chiavegato, fondatore di LIFE, Liberi Imprenditori Federalisti Europei. Chiavegato, bonsoir. Bonsoir a voi. Come andiamo, Chiavegato? Beh, non è che non amo essere chiamato leader dei forconi, perché solo che non lo sono, quindi. Cioè, lei non è uno dei forconi? Beh. No, non sono uno dei forconi. Non c'entra niente, però i forconi è la sigla che accomuna tutto, quella che vuoi. No, è una cosa che avete fatto voi della stampa, sì. Una semplificazione che vi viene meglio, ma non è così, perché il movimento è il movimento 9 dicembre, sì. dove oltre ai forconi ci sono delle altre sigle di associazioni. Tra cui la sua. Sa che cosa ha detto oggi il sindaco di Bari Emiliano? Conosce il personaggio? Sì, lo conosco. Allora, ha detto che i forconi, ci mette dentro anche lei evidentemente, cioè tutti questi che stanno protestando per strada, eccetera, sono ispirati da un pregiudicato, anzi da un pregiudicato, da due pregiudicati, Grillo e Berlusconi. Ah sì? Sì. Ma non lo sapevo. Insomma, bene, no, non sapevo, adesso forse mi guardo intorno, provo a vedere. Colpa del pregiudicato Berlusconi e di Grillo, questo ha detto. Guardi, io sono all'antica, sono rimasto che perché Berlusconi era ancora il mafioso di Arcore, quindi sono rimasto ancora lì. Grillo non mi piace, allora o si sbaglia il sindaco di Bari oppure non so, ho sbagliato tutto io. Cioè lei è rimasto al fatto che da ex leghista diciamo che Berlusconi è il mafioso di Arcore? No, non da ex leghista, ma dai fatti, che dalle carte che ci sono visibili per tutti quanti, insomma. Per lei Berlusconi è il mafioso di Arco, dunque non c'è l'idea di incontrarlo, non è passata nemmeno per la testa? Ma proprio no, non c'ho proprio voglia e neanche nessun interesse di incontrare né lui né tantomeno Grillo. Ma Grillo non le piace? No, non mi piace. Cos'ha che non va a Grillo, per esempio? Una cosa che non le piace? Beh, una cosa che non mi piace di Grillo è che quello che stiamo facendo noi avrebbe dovuto farlo lui, perché con 8 milioni di voti mi sembra che abbia preso circa 8 milioni di voti. Se non, cioè, non ha fatto nulla, non ha fatto nulla contro Equitalia, contro le tasse. Ma cioè, quando, guarda, quando tu hai 8 milioni di voti e vieni, diciamo, ti viene dato consenso dal 30% dei partecipanti alle votazioni, è sicuramente un numero importante, però quelle persone lì non ti hanno dato il consenso perché tu vada in Parlamento a fare i giochetti di partito o i giochetti di maggioranza. Quelle persone lì ti hanno dato un voto, per la maggior parte, tra cui anche i miei parenti, mi hanno dato il voto perché per protesta, per esasperazione della politica italiana. Chiaregato, lei che farebbe col Parlamento italiano? Che fine farebbe fare al Parlamento italiano? Ma io... Un bel falò? No, non facciamo cose violente, noi gli faremo solo accomodare fuori gentilmente, sì, che tolgano il disturbo dalle loro sedie dorate, sì, che vadano a trovarsi un lavoro onesto, che vadano a vedere come si può vivere con 1.000-1.200 euro. E chi comanda poi? Chi le fa le leggi poi? Guardi, in Belgio... Sì. In Belgio è successa la stessa cosa. No, ma non c'era il governo, non il Parlamento però. Attenzione. Non c'era il governo. Cioè ce n'era uno, ma non quello... Non c'era il governo, non è successo nulla. Sono andati avanti senza governo per 2 anni. In Islanda hanno avuto lo stesso problema di una classe politica. Cioè, ma chi comanda senza il Parlamento? Ma si farà sicuramente. Nel frattempo può esserci un governo transitorio fatto dalle regioni. Nel frattempo potrebbero essere le regioni che governano. Ma come si fa? Che governo transitorio di chi? Scusi, Chiavegato, adesso bisogna essere... Mi scusi un attimo. Adesso lei non cerchi di farmi dire quello che non voglio dire. No, ma io ho chiesto governo transitorio. Allora io non sono un legislatore, io sono capace di fare i mobili, capisce? Sì, lei fa il conduttore radio, quindi mi venga a dire quello che dobbiamo fare. Io le dico solo una cosa. Un attimo solo, che abbiamo il traffico, torno subito, Chiavegato, torno subito, traffico. Lucio Chiavegato, fondatore di LIFE, Liberi Imprenditori Federalisti Europei, uno dei leader di questa protesta. Chiavegato, perché a lei piace Putin? Ma mi piace Putin perché io vado spesso in Russia per lavoro e vedo che le cose stanno andando avanti. Sì, cioè, ma in che senso le piace Putin? Scusi, da che punto di vista? Putin sicuramente ha dato una spinta molto forte all'economia del paese, ed è un paese che sta crescendo molto. Sì. Poi, qualche problemino di corruzione c'è, qualche problemino di diritti umani, ma tutto il resto non importa. Insomma, vecchio oligarca del Partito Comunista, ma insomma del KGB, ma insomma tutto bene per il resto. Guardi, i commenti io la inviterei, chi è Parenzo che sta facendo. Sì, caro Chiavegato, sì caro, sì caro, ti conosco da 20 anni, guarda. Anch'io. Da 20 anni che ti conosco, amore mio, che parli di sciopero fiscale da 20 anni. Beh, lo sciopero fiscale qualche volta è giusto. Da 20 anni che parli di sciopero fiscale. Qual è il problema? È che poi non si fa un cazzo, dice vai avanti tu che mi viene da ridere. Qual è il problema? Da 20 anni, amore, che parli di sciopero fiscale. Da 20 anni. È da 20 anni che fa il giullare, dice lei, Chiavegato. Da 20 anni. Non è riuscito a sfondare. Ma Putin le piace anche quando promuove le leggi contro i gay? 20 anni che fa lo sciopero fiscale. Ma guardi, io a me Putin piace come statista, ripeto. Sì. In Russia Putin è amato. Le cose funzionano, c'è ordine, sì. Riesce a mantenere l'ordine, riesce a dare una garanzia, riesce a far sviluppare. Io vedo che ci sono città che prima erano depresse, stanno crescendo e ci stanno superando in tante cose. Senta, con gli immigrati clandestini lei che farebbe, Chiavegato? Guardi, io sono qui per parlare del 9 dicembre. lei non mi deve chiedere questo. No, scusi, io penso, Chiavegato, non è una domanda assurda. Se lei vuole governare il paese, se volete governare il paese, una cosa sull'immigrazione può essere detta o no? Ma chi le ha detto che noi vogliamo, dove c'è scritto che noi vogliamo governare? Vabbè, uno che si propone come movimento vuole prendere il potere, cioè vuole entrare. Ma lo dice lei, questo lo sta dicendo lei. Noi fa delle proposte, ma comunque io le ho fatto una domanda. Che cosa farebbe con gli immigrati? Che cosa farebbe con gli immigrati clandestini? Non è una domanda così peregrina. Ha a che fare col mondo del lavoro, col mondo delle tasse? Guardi, le dico solo una cosa, allora glielo ripeto, se vogliamo parlare del movimento 9 dicembre, sì, io sì, le spiego tutto, sì, quanto. Se lei mi vuol chiedere quello che penso personalmente. Personalmente, certo, chiedere, personalmente. Può certo chiedere personalmente cosa ne penso di Gardaland, degli immigrati. No, degli immigrati clandestini. Degli immigrati clandestini. Allora, io le ripeto, io ho le mie opinioni personali. Che me le tengo, questo mi interessa. Io non le sto facendo questa intervista per dirle che ha legato Lucio cosa ne pensa degli immigrati di Gardaland e queste cose. Se vuole sapere qualcosa del 9 dicembre per dare un'informazione corretta ai radioascoltatori, io sono qua, altrimenti le cose mie personali me le ma perché tengo personali? Scusi, lei me le tengo, ma è chiaro che me le tengo per me, perché poi voi prendete in base a quello che dico io dite che tutto il movimento ma assolutamente movimento, no, ma assolutamente, ma allora perché? Ma glielo ripeto, io non sono qui per parlare dei miei pensieri personali. Io, se vuole che le spieghi che cos'è il movimento 9 dicembre, così dite almeno che non è più quello dei forconi. Io l'ho già detto, l'ho già detto che non è quello dei forconi. Bene, non allora, ci sono solo i forconi. Se ha qualcos'altro da chiedermi sul movimento 9 dicembre, le chiedo cosa farebbe lei personalmente a titolo personale con gli immigrati clandestini, quali provvedimenti prenderebbe? Ma guardi, glielo ripeto, io le cose si possono fare in mille modi. Io ad esempio mi son preso la briga di chiamare l'ambasciata del Congo. Esatto, bravo, sì, quello che voglio dire. Da dove viene la nostra ministra dell'immigrazione, sì, giusto? Esatto. Sì. Ecco, ho chiamato l'ambasciata del Congo e ho chiesto, scusi, gli ho detto, sono uno studente universitario, la telefonata ce l'ho anche registrata, se vuole te la passo. Sì. Gli ho detto, sono uno studente universitario, sto facendo una ricerca su come funziona, su come trattate voi l'immigrazione, sì, nel vostro paese. Sì. Se trovate un immigrato clandestino, cosa fate? Sì. La signorina dell'ambasciata mi ha risposto, guardi, con immigrato clandestino non ci può essere in Congo. Sì. In Congo. Gli ho detto, ok, ma se lo trovate, cosa fate? Sì. Ho detto, se troviamo un immigrato clandestino nel nostro paese, lo rispediamo immediatamente dal suo paese. Ed è quello che dovrebbe accadere in Italia, secondo lei? Ma guardi, un immigrato clandestino vuol dire che è già un immigrato clandestino, quindi è clandestino, quindi deve tornare sul paese, non ho capito. No, infatti ho capito invece cosa succede? Si discute. Se poi lei mi dice... Ci voleva la telefonata al Congo. Se lei poi mi parla di immigrazione, io le posso rispondere che la Svizzera è uno dei paesi dove c'è la maggior parte, sì, di percentuale di immigrati che vanno lì per lavorare, quindi gli immigrati che vengono per lavorare, sì, sono in regola con i documenti. Assolutamente, certo. E che non delinquono. Ma guardi che io sono d'accordo con lei, su questo sono d'accordo. In Congo, ma su questo sono d'accordo con lei al 100%, al 100%. A me non dà nessun fastidio, cioè, ripeto, io ho amici... Ma la Chieng, secondo lei la Chieng è un ministro inutile? Io la Chieng la trovo solo non preparata su quello che sto facendo e basta. Un attimo che c'è il giornale radio. Stanno di mente per adesso, sì. Ma perché non chiama ad esempio a Focus Economia? Perché hanno meno ascoltatori. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così. I politici che salgono sul carro della protesta sono quelli più fastidiosi, vi devo dire la verità. I politici, certo, che salgono sul carro della protesta, alcuni li conosco personalmente, per carità. In politica si può fare di tutto, ma in altre occasioni, davanti all'occupazione delle strade, davanti al blocco delle frontiere, di fronte ad illegalità che ci sono, per carità, le illegalità le fa pure lo Stato che dovrebbe rappresentare la legalità, però la legalità o va bene o non va bene. Di fronte a queste illegalità palesi, perché c'è anche gente che continua a lavorare, che viene disturbata da queste manifestazioni. Di fronte a tutto questo ci sono politici che in altre occasioni avrebbero detto di sparare, chiaro? L'amico Salvini, per esempio, che dice che i forconi dovrebbero entrare in Parlamento. Dopo il voto di oggi i Forconi dovrebbero entrare in Parlamento più che aspettarli fuori. La fiducia Letta l'ha chiesta sul nulla, nuove tasse e molto poco lavoro. E quindi come Lega abbiamo perso la pazienza, quindi il no non sarà più solo dentro un palazzo, ma sarà domani anche fuori. E beh, addirittura la Santanchè già da giorni dice che bisogna ascoltare queste proteste legittime. Louis Vuitton dai, e Forconi. Su, basta Louis però. Vuitton e Forconi. Dai, su. Noi politici dobbiamo ascoltare, cosa che non siamo più abituati da tanto tempo a fare. Parliamo, tu hai parlato di legittime. Allora, voglio chiedere a Lucio Chiavegato, fondatore di LIFE, i Liberi Imprenditori Federalisti Europei, qual è la sensazione che ha sentendo le parole della Santanchè che sale sul vostro carro? Un brivido alla schiena mi viene. Bravo. Addirittura un brivido alla schiena. Ma se lei avesse di fronte la Santanchè, che cosa farebbe, signor Chiavegato? Bah, guardi, io intanto eviterei di incontrarla, perché proprio non è il massimo del mio idolo di politica. E poi chiaramente la prima cosa che chiederei alla signora è che, e a tutti quelli che salgono sul carro, io volevo solo specificare che alla nostra manifestazione, al presidio più grande che c'è attualmente in Italia, Soave, che è quello di Soave, sono già venuti il primo giorno a fare la passerella in tre. È venuto un ex deputato della Lega, un consigliere regionale del PDL, che poi non so come si chiama adesso, e due sindaci. E lei che ha fatto? Ma io, non solo io gli ho detto gentilmente di allontanarsi, perché non erano benvenuti. E poi visto che volevano insistere, sono stati allontanati da una scarica di insulti e di parolacce. Ecco, ma se lei avesse di fronte a Letta, che cosa direbbe di fronte a Letta lei? Letta chi è? Quello che è stato lanciato dagli extraterrestri col paracadute a fare il primo ministro? È quello? Stiamo parlando di quello? Sì, ma se lei, sì, è quello là. Se lei ce l'avesse di fronte, è stato eletto anche dagli italiani, signor Letta? Un po' sì. No, non è stato. Non come capo del governo, però insomma, il Partito Democratico ha preso un sacco di voti, comunque. È stato nominato come tutti quelli che nominato, sono nominato, sì, certo. Bene, però. Lei pensa di avere più voti di Letta? Ma io non voglio voti. Ma no, più consenso di Letta. Ma lei come mai è Chiavegato? Ogni volta che si è presentato alle elezioni hai preso delle caracche sui denti pazzesche, però, perché va benissimo la rivoluzione. Perché sono sempre andato alle elezioni con le mie idee, non mi sono mai appoggiato. Ho capito, però la democrazia, se questa roba qua, amico mio. A me l'hanno offerta la sedia due volte e l'ho sempre Ma se questa democrazia, te presenti alle elezioni, te ciapi i voti e poi vieni e vai in Parlamento, altrimenti continui con i forconi, benissimo, a dire stato ladro con i forconi, benissimo. Non è proprio così, perché le persone che fanno politica in questo momento sono sempre persone che fanno parte di una certa cerchia. Che si dividono le sedie tra loro, sappiamo benissimo come funziona. Ma se avessi di fronte Letta, di fronte a te, cosa gli faresti? Ma, cosa diresti? Ma a Letta, guarda, non è il nostro interlocutore Letta. Ma come? Non è il capo del governo, Chiavegato. Ma è un capo di un governo che non esiste. C'è un governo fantoccio, dici tu. Ma certo che è un governo fantoccio, è stato eletto da un presidente, è stato nominato da un presidente della Repubblica, che aveva detto agli italiani che non si sarebbe ripreso. Non è il tuo presidente del Consiglio, non è il tuo presidente. Assolutamente. Scusami un attimo, però questo governo provvisorio che tu vorresti formare adesso, veramente, però bisogna arrivare ad una cosa. Governo provvisorio, come fai ad andargli dietro? No, ma io sono curioso, dice, vabbè, il Parlamento devono uscire gentilmente e andare fuori dai coglioni. Sono i militari. Questo governo provvisorio come sarebbe formato? Da chi? Uno deve essere anche concreto, Chiavegato, io ti posso venire dietro, però fino a un certo punto. Nomi, chi? Scusami, ma il governo provvisorio, io ti ripeto, allora voi continuate a scansare il problema. Qui abbiamo, è come che io avessi un ladro in casa, okay, che tutte le sere mi viene a rubare in casa. Il primo provvedimento che faccio io è quello di mandare via il ladro di casa. Non è il mio pensiero, non è cosa succederà. Ma come no? Se cancelli il Parlamento, se fai uscire tutti quelli dal Parlamento, chi fa le leggi? Ma scusami ancora, te lo ripeto ancora una volta, vuoi che ti faccia un altro esempio più semplice? Siamo su una nave che sta affondando, tu mi stai chiedendo, quando la nave sta affondando, io la prima cosa che penso è di salvare la vita mia e dei miei figli. Cercherò un salvagente, una scialuppa, cercherò qualcosa da attaccarmi. E che ne so, un governo militare, che cosa? Non lo so, dimmi. E tu mi stai chiedendo se poi arriviamo su un'isola deserta, la tua preoccupazione è se mangeremo le banane o le noci. Ma no, tu mi stai girando, io sono qui, come molti italiani, per dire che siamo stufi di questo governo, di questi politici corrotti, indagati, condannati, che ci hanno portato alla miseria. Questo siamo sappiamo, per dire questo qua. Quindi a me non interessa quello che verrà dopo. Ma che cosa facciamo adesso, cara ragazza? Che succede? Allora, noi abbiamo dopo che hai bloccato le strade per qualche giorno, cosa succede poi? I nostri figli, il futuro dei nostri figli, tu mi parli. E dopo che avremo fatto questo, cosa faremo? Prima facciamo questo. Ho capito, ma non è oltranza. Che succede adesso? Posso sapere che devo venire in Veneto la settimana prossima? Posso arrivare a casa? Dopo che hai bloccato le strade per 3 giorni, che cosa succede? Posso sapere che succede? Cosa succede? Succede che la gente si sta rendendo conto che i problemi sono gravi, si sta rendendo conto che ci sono molte persone che si stanno aggregando a questa dunque protesta. Cacciare via i politici dal Parlamento, se non sono più soli, è chiaro che è così. Cacciare quindi i politici dal Parlamento, questo è l'obiettivo. Ma dal Parlamento, ma io parlo anche dei burocrati, abbiamo dei burocrati. Che hanno cacciare stipendi tutto. Più alti dei quello è vero, questo è vero, ma non serviva Chiave Gatto per saperlo. Abbiamo della gente come Equitalia, signor Beffa, che manda le cartelle esattoriali, butta fuori di casa la gente che prende 400.000 euro all'anno, ma di quello stiamo parlando? Secondo te Beffa, come va trattato Beffa? Come va trattato Beffa secondo te? A Beffa va messo uno stipendio normale e che si faccia un lavoro, che provi a aprire una partita IVA lui. Oppure? Deve fare pane e acqua. La maggior condanna per Beffa è quello di avere una partita IVA. Mi scusi, ma di cosa stiamo parlando? No, va processato per qualcosa? Va processato? Ma io Beffa sinceramente lo processerei per istigazione a suicidio di molte persone che si sono ammazzate per Equitalia. Io ho parlato con la vedova di Marrone di Bologna la settimana scorsa. Che è quella a cui Equitalia e quindi in primis Beffa, perché è lui che comanda l'Italia, hanno mandato la cartella esattoriale, esattoriale di 60.000 euro del marito morto del marito che si è suicidato vivo davanti a Equitalia. Cioè, se poi volete buttare voi in ciaciara e fare ma è così. Stiamo parlando di cose serie, ok? Allora, ma uno che manda questa cartella esattoriale, che fine deve fare secondo te? Ma deve essere processato per istigazione al suicidio. Oh, benissimo, perfetto. Questo l'ho capito. Perché te la prendi con gli impiegati di Equitalia? Me la prendo con gli impiegati di Equitalia perché dietro Equitalia non è un'entità astratta. Ci sono delle persone che hanno anche loro una famiglia. Sono aguzzini? Sono aguzzini questi qua? Devono ribellarsi? Ribellarsi? Sono solo dei collaborazionisti, loro stanno eseguendo dei che dovrebbero prima valutarli bene. Ho capito. Perché uso il linguaggio di guerra? Io oggi ho parlato con il direttore di Equitalia, siamo stati lì. Lui mi ha detto, sa che io sono funzionario dello Stato ed eseguo gli ordini, come lo fanno i poliziotti che ci hanno accompagnato. Gli ho detto, scusi, se i poliziotti che ci hanno accompagnato adesso, con cui noi abbiamo un buonissimo rapporto, non abbiamo nessuna... Se ai poliziotti viene ordinato domani da Angelino Alfano di sparare a vista sui manifestanti, è un ordine che viene dato. Dunque devono ribellarsi, ribellarsi. Io penso che i poliziotti avranno una loro coscienza e diranno perché devo sparare a queste persone. E lo stesso accade. Scusami, Cruciani, perché Chiave Gatto usa un linguaggio di guerra contro lo Stato, questo è il punto. Viene ordinato di mandare una cartella esattoriale ad uno che è già in crisi economica e anche in crisi È un collaborazionista. E questo si suicida, di chi è colpa questa? Non ho capito, di chi è la colpa? Senti, ma secondo te in qualche caso è legittimo l'uso delle armi? No, assolutamente no. Mai. Beh, se usi un linguaggio come collaborazionisti, che è un linguaggio che si usava quando veramente c'era la guerra, quando c'era il nazismo. Ma è una guerra, questa è una guerra dei poveri, questa è la guerra dei poveri, è la guerra delle persone che non arrivano a fine mese, è la guerra dei poliziotti normali che prendono 1.000 euro. Questo lo sappiamo, tu sono 20 anni che sei in guerra contro lo Stato e ogni volta che ti sei presentato alle elezioni hai preso ovo, cioè zero. E siccome qui siamo in democrazia, conta chi vince, che poi gli altri abbiano sbagliato in tutti questi 20 anni, classe dirigente da mandare a quel paese, puoi aver ragione, ma tu ti presenti alle elezioni e ti conquisti il consenso. Sono 20 anni che ci racconti queste robe, 20 anni, ti conosco da 20 anni, Chiave Gatto. Se a me piace fare la politica, dov'è il problema? Scusa, ma va benissimo. Io sono sempre stato coerente con le mie idee. La coerenza è una cosa che manca molto. Chiave Gatto, tu ti stupisci se qualcuno prende le armi nei prossimi giorni? Ti stupiresti? Io Io credo che non si debba arrivare a questo, e credo proprio che non arriveremo a questo, perché ormai la gente, e soprattutto i politici, hanno capito che la gente hanno superato il limite, e sono sicuro che prenderanno dei provvedimenti urgenti per far fuggire la rabbia della gente. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ragazzi. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La riforma elettorale passa alla Camera con i voti di PD, SEL e Movimento 5 Stelle. Con Ariello Aberte troviamo l'intesa nella maggioranza o sarà crisi? Sulla legge di stabilità Forza Italia vota con i 5 Stelle, Grillo di nuovo contro Napolitano, Berlusconi se mi arrestano sarà rivoluzione. Quarto giorno di protesta dei forconi, tafferulli e blocchi a Ventimiglia, chiuso il confine, tensioni a Torino, tutti a Roma, dice il leader che va in Jaguar. Scontri tra studenti e polizia all'Università La Sapienza a Roma, bombe, carta e fumogeni, due fermati, poi rilasciati, manifestanti, cariche ingiustificate. Alfano alla Camera, chi è nelle istituzioni, non strumentalizzi la protesta, difenderemo i cittadini e chi lavora, rischio deriva ribellistica. Anche oggi Sudafrica rende omaggio a Mandela, gli inviati del TG3 a Marikana, la miniera dove l'anno scorso la polizia uccise decine di minatori in sciopero. Ancora un caso di violenza sulle donne. A Roma un bengalese sfregia la moglie con l'acido dopo una lite, ferita anche la figlia di 13 anni. L'uomo è stato arrestato. Quello che ti devo dire, t'ho detto, come dice Pannella, non capisci un cazzo. Ciao. Mughini contro i 5 Stelle. Sentite e prendetene tutti se vi piace, ovviamente. Non voglio dire che ha ragione Mughini. Arriva. Ma quella è una povera, ma perché parliamo di tali poveracci andrebbero confinati nella pagina, in una listarella, lo sciocchezzaio del giorno, una listarella, non può la taverna assurgere, non dico a protagonista, ma ad attrice rilevante, perché non lo è una povera disgraziata. Sta parlando della taverna, senatrice Taverna, una povera disgraziata. Grillo! È un poveraccio che schiamazza, è un pagliaccio che schiamazza. Perché siamo nell'era del pagliaccismo sconfinato. Annarella, pure lei contro i 5 Stelle. Cominciano a diventarmi simpatici però questi 5 Stelle. Più li attaccano e più mi stanno simpatici, lo sai, no? Se noi ci veniamo accusati da parte della politica, da destra e sinistra che sia, di essere dei populisti, perché parliamo come dei cittadini, è vero, siamo dei cittadini e parliamo come cittadini. Che cazzo da fatta, bisogna e basta, perché voi siete più ladri di quell'altro. Moschito, non mi molesti moschito, why don't you go home, non mi molesti moschito. Oh, però è vero quello che dice il vice direttore di Libero De Manzoni, il quale dice che in altre occasioni le città vengono messe a ferro e fuoco da altri cortei, soprattutto quelli di sinistra, eccetera eccetera, e nessuno dice nulla. Stavolta ci sono molti esponenti di sinistra, ci sono molti esponenti della sinistra. Nessuno dice, vengono coccolati. Ma da chi? Da molte persone, non ti preoccupare, da molte persone. Non mi risulta. Cioè, siccome questi qua sono sporchi, cattivi, un po' di destra in alcuni casi, eccetera, sì. Adesso è la rivolta, no, degli sporcaccioni, è la rivolta di quelli beceri, eccetera. Invece le manifestazioni no TAV, le manifestazioni degli universitari, le manifestazioni, no, della rivolta sociale, eccetera, eccetera. Queste qua sono invece manifestazioni che bisogna cosa fai. Prestare attenzione. Ma chi l'ha detto? Anch'io ho detto che alcune di queste anch'io ho detto che dentro fammi questo movimento Manzoni, dai, ci sono dei poveretti, delle persone che vanno ascoltate. Fammi sentire le Manzoni. Io le città messe a ferro a fuoco, le ho viste messe a ferro a fuoco da gente coccolata, dai sindacati ufficiali spesso e comunque infiltrata in cortei dei sindacati ufficiali. Tutto questo ancora non è avvenuto. Partire con la demonizzazione, la violenza, mi sembra la risposta sbagliata. Siamo qui, 800240024, David Vicenza o David o David, non lo so. David, come il tuo parenzo? Dimmi, allora il nome, bravo. Guarda, io sono imprenditore veneto di Vicenza e volevo sottolineare a Parenzo che anche se noi non siamo in strada perché adesso stiamo lavorando, siamo vicinissimi a Lucio che ha organizzato questa manifestazione. Vabbè, allora... Dunque, non pensiamo che siano solo le persone disoccupate, casalinghe o casse integrate in strada, hanno l'appoggio di tutto il Veneto, che produce. E perché Parenzo, io sento, lo sbeffeggia, prende sempre un po' in giro quando parla. Ma non è che lo sbeffeggia, dico che sono 20 anni che dice queste stesse cose e quando si è prestato alle elezioni ha fatto acqua da tutte le parti. Ma non è sbeffeggiare, è dare un dato di realtà. Qua ti appoggio, però... Parenzo, puoi anche capire che chi fa impresa oggigiorno è come un soldato dentro in trincea. Certo. Va bene, lo so bene. Mirko da Lucca, buonasera Mirko. Certo, hai ragione. Sì, buonasera. Dimmi. Io chiamavo per dire che sono un po' arrabbiato con lei, Cruciani. Mi trovo spesso d'accordo, ma questi ultimi giorni no, perché sta cercando di ridicolizzare queste persone. Io non ridicolizzo nessuno. Ascolto e dico alcune ragioni inappropriate. Ma che inappropriate? Che vuol dire uno che questo propone il governo provvisorio? Dai, su ragazzi. Ma lei crede che forse i vari Barbareschi, Minetti e compagnia cantante avrebbero più cose da dire di queste? Allora perché non si comportavano nello stesso modo con chi? Loro? Ma come pensa, no? Ma come pensa no? Che tanti del Movimento 5 Stelle hanno più cose da dire di questi qui? Lei deve capire che sono persone. Ma questi qui chi? Chi? Di questi chi? Che chiamano a intervenire, di questi dei forconi, di questi movimenti. Senta, a me delle persone disperate. A me lei, sì, ma non è che necessariamente se uno è disperato ha ragione, anche alle varie Minetti, Barbareschi. Ma che Minetti, Barbareschi? Ma di per che vedere cosa rispondono, avrebbero meno da dire, perché i grandi politici si vede dove ci hanno portato. Ci hanno portato una situazione che è un disastro. Ma questo non c'è dubbio, ma cosa c'entra questo? Scusi, allora cosa bisogna c'entra? Anche chiedere ai politici cosa vogliono fare, come vogliono raddrizzare le cose, non chiederlo all'uomo della strada che protesta perché non ce la fa più. Provi a chiederlo ai politici, vediamo se le danno delle risposte che siano comprensibili a tutti. Però. No, non le danno non mai, non le danno mai, dicono sempre un sacco di cazzate, un sacco allora di cose generiche. Il problema è grosso. E allora che vuole? Ma che vuole da me? Ma che vuole da me? Non può ridicolizzare le persone. Ma io ridicolizzo ridicolizzo quando è il caso, secondo me, di ridicolizzare. Quando uno propone, a parte che in questo caso non ho affatto ridicolizzato il Chiavegato, abbiamo battagliato su alcune cose. Uno che propone, il capo della Life, uno dei leader del movimento cosiddetto dei Forconi, anche se lui non si riconosce in questa denominazione, uno che dice che bisogna cacciare i politici dal Parlamento e poi fare un governo provvisorio, non si sa di chi, forse con le regioni, amico mio, non ci siamo. Amico mio, non ci siamo. Chiunque ci mettiamo al posto di questi. Ma che vuol dire peggio. Ma chiunque ci mettiamo? È un discorso di Dio. Ma come cambiamoli. Volete cambiare le cose? Con i colpi di Stato? Con che cosa? Cambiamoli chi? Come? Si cambiano con le elezioni i deputati, non con la rivolta di piazza. Ha capito o no? E cambiare le persone. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero, lei può scegliere chi vuole, non dica stupidaggini, anche con questa legge. Solo l'ultima volta votato. E allora ha scelto, punto e basta. Prima non si riusciva a votare perché erano sempre gli stessi. Mi dica lei chi era che cambiava qualcosa. Ma che vuol dire? Ma erano sempre anni. Gli stessi perché lo voleva lei, perché lei voleva votare sempre gli stessi. E se tutta l'Italia vota sempre gli stessi e voi governeranno sempre gli stessi. Allora adesso l'Italia mi sembra che non ha più voglia di votarli. Carmine da Milano, buonasera. Ciao. Dimmi. Allora ascolta, soltanto volevo dire una mia opinione, forse non conterà nulla, però ormai è una di quelle tante di tutti gli italiani che oggi come oggi sono un po' stanchi di questa politica. Stanchi di questa politica, bellissimo. Lei che cazzo ha votato fino adesso? Me lo dice che stracazzo ha votato fino adesso? Nella sua vita cosa ha votato? No, perché lei è stanco della politica, non ha mai votato, bellissimo. Peggio per lei, peggio, complice di questi qua, complice della politica, complice, peggio per lei. Non ho votato perché è complice mai come politici, non me ne frega niente, è complice come politici, ha capito? I risultati sono visti adesso, i risultati non me ne frega niente, lei è complice come politici, complice come politici, siccome non ha votato, non ha scelto, adesso si attacca, capito? vorrei chiedere a questi politici se si fanno un esame di coscienza ad Alfano, a Letta. Lei non ha votato, non ha diritto di dire cose del genere, non ha votato nessuno, no, è peggio per lei, non ha scelto. Se si fanno un esame di coscienza e dicono ma sta gente c'ha il piatto da mangiare per la casa o no per i loro figli. Questi non si chiedono nulla, chiedono ma chi? Chi? I politici aspettano a fine mese che gli arriva lo stipendio sul conto corrente, ma solo lo stipendio glielo diamo noi italiani. Questo non c'è dubbio che glielo diamo. Glielo diamo noi, ma forse non anche non eccessivo. Fanno un esame di coscienza, perché loro a 27, a fine del mese, prendono lo stipendio, il resto se ne sbattono le palle. Ma lei che cosa ha votato in questi anni? Non è andato non a votare? Perché non ci credo, perché non ci credo a quello che fanno. Perché hanno rubato le cose a destra e manca, e poi hanno appartamenti a destra, appartamenti a sinistra. Ma lei è stato in piazza con i Forconi? È stato in piazza con i Forconi lei o comunque con uno dei tanti movimenti? Non è stato in piazza con i Forconi, ma stamattina sono stato fermato a Pero dal movimento dei Forconi, mi hanno dato un volantino e mi sono fermato con loro 10 minuti. 10 minuti, bene. Sì, perché li apprezzo e accetto, non vedevo l'ora che succedeva una cosa del genere. E poi che succede? E poi che succede? Che vuole fare con i politici lei? Che vuole fare con i politici in Parlamento? Per esempio, mi dica che cosa vuole fare. Ma io non vorrei, io non è che adesso cosa voglio fare, una rivoluzione. Ho capito, ma ci sarà una proposta o no? Una proposta, secondo me, che loro comunque devono andare a casa. Devono andare a casa. Ma come devono andare a casa? Col calesse, con la bicicletta, con la macchina, devono uscire dal Parlamento con la folla intorno. Come devono andare? Come devono uscire dal Parlamento? Io vorrei capirlo, perché io posso anche essere d'accordo. La rivoluzione e le armi non le accetto, assolutamente. Non le accetto, ma se ne devono andare a casa, cosa vuol dire se ne devono andare a casa? Concretamente. Devono dimettersi. Dare dimissioni, dimettersi da benissimo. Sì, poi? E poi saranno nuove elezioni. Allora lei vuole semplicemente nuove elezioni. Ma pure Berlusconi. Lo sa quante persone vogliono nuove elezioni? Berlusconi, Grillo e altri ancora. Cioè non è che una cosa, non è che uno scende in piazza, semplicemente la richiesta qual è? Vogliamo nuove elezioni. Ma che vuol dire? Anche quella è una richiesta. Sì, ma vorrei innanzitutto che anche il Presidente della Repubblica, dopo un tot di anni, non può stare ancora lì a dirigere, a fare che cosa? Ma cosa deve comandare ancora sto napolitano? Che cosa ci ha rovinato? Napolitano è un altro, napolitano è un altro ancora, no. Sono due diversi. Cioè, Sì, sicuramente. E lui sta lì a capo dello Stato a fare che cosa? E c'è la destra, c'è la sinistra, tutta questa gente ci hanno portato allo sfacelo. C'è gente che non ha il piatto dalla sera e i soldi per fare la spesa, ma loro non si rendono conto, sta gente, non vogliono aiutarci. Io sono un autonomo, lavoro in proprio, ma con le tasse che pago a fine mese non riesco più ad arrivarci. Vabbè, Carmine, ho capito. Elisa da Roma, buonasera. Buonasera, io... meraviglio molto, Bruciani, che lei prenda questo atteggiamento. È una persona così saggia, così razionale. Ma che cosa dobbiamo fare noi italiani? Aumentano le tasse ancora ed è anche complicato pagarle. Non c'è dubbio, lei ha ragione perfettamente. È una vergogna il sistema fiscale italiano. È tutta una vergogna. È tutta una vergogna. Di tutto e di più. Ma guardi, ancora loro devono diminuire la spesa pubblica e che non ne parlano. Va benissimo, affatto. Ottimo, stupendo, meraviglioso. Sul Corriere della Sera. Meraviglioso. Una denuncia, una critica fatto l'ambasciatore di Madrid a Roma, l'ambasciatore spagnolo, facendo un paragone tra quanto costa la politica in Spagna e quanto costa da noi. La posso abbracciare fortissimo. Ma lei ha ragione, è ha ragione. Qui noi, guardi, se lei va in giro per Roma ormai è un immondezzaio. Vabbè, quello che c'entra un immondezzaio Roma. Dicono, non ci sono i soldi per pulire, non ci sono i soldi per rifare le strade, non ci sono i soldi, ma se li mangiano. Ma io purtroppo mi levo tanto di cappello questi che hanno avuto il coraggio di scendere in piazza. Ma qui che aspettiamo a farlo tutti? Ma qui veramente, qui è come Antoinette che ci danno le brioche. Ma come? Chiediamogli le brioche. La regia. Cara Elisa, cosa vuole che le dica? Io sulla diminuzione della spesa pubblica, eccetera, sono anche d'accordo, ma qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Non si sente niente. Non so, io ho già sentito abbastanza, grazie. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Mosquito scream. Ancora a casa, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Patuelli ieri alla gabbia. Quelli dei banchieri non sono stipendi d'oro. Sentite. Per esempio, io posso dire qualcosa sugli stipendi d'oro dei manager delle banche oppure no? stipendi no, d'oro. Visto che li sto pagando io, no? Visto le liquidazioni che girano. Scusi. Allora c'è un elenco, c'è un elenco. No, no, c'è un elenco dei principali stipendi, dei 50 stipendi più elevati in Italia. 41 sono di calciatori e 9 sono di imprenditori, sì, non del non settore pago, finanziario. Lei mi sta dicendo che però no, il calciatore lo paga lei con le tessere, con gli abbonamenti e col biglietto dello stadio. Poi ha anche detto le banche soffrono la crisi. A un certo punto interviene uno del pubblico, un imprenditore che si chiama Leva, lì alla gabbia, e sentite cosa dice. Io penso che voi banchieri, da distinguere dai bancari, che sono, fanno parte di noi bancari, avete nel DNA la bugia e la scorrettezza. Io, se dobbiamo parlare sulla base degli insulti, non lei credo ha dato, che sia. Sì, guardi, e io se posso usare un neologismo, dico che avete la faccia come il culo, no, se si può dire. Dai. È un neologismo. Angelo da Pordenone, buonasera Angelo. Sì, sì, ciao carissimo. Dimmi, dimmi. Questo qua veramente è un grossissimo problema, perché io voglio stemperare un attimo i toni, perché poi dopo tutti quanti paleoveneti, cioè a parte il Parenzo che è uno straordinario e tu sei gentilissimo, ed essere sempre con lui violento in maniera verbale, chiaramente è ovvio, no? Spero che non inculi. Però vabbè, questo ha bevuto, insomma, è qui chiaro. Non si tromba più, no, è questo, sì, il grosso problema in Italia, non si tromba. Parenzo, chiamo Angelo, io, chiami tu. Angelo, scusi, che mattinata, che giornata ha avuto lei oggi? Non solo per capire un attimo. Bruttissima, l'ha preso spesso. Ah, volevo un po' castigare il gran Giuseppe, perché poi dopo lui senza non microfono tuo, questo, come si ritrova, cioè, per andare a trombare veramente deve andare lontano. Ma siete amici con Cruciani da quanti anni? Mai sentito, mai sentito, né visto in vita mia. Giuseppe, ma questo signore Angelo da Pordenone, che chi dice gran Giuseppe poi parla di trombare, per carità, va benissimo, qui si possono usare. Avete mai per quello? Ma sono affari tuoi, ma sono avete affari mai tuoi. Pranzato insieme? Ah, sì, no, ma sono uscite di tempo, sì, no? Ma insomma, dai, no, dai, cerchiamo di stemperare un attimo questo atteggiamento, sì, un po' così. Stemperare, sì, un, stemperare attimo. Un attimo. Chiami tu o chiamo io? Che dici? No, chiami tu? Tu sei a Milano, è più vicino a Pordenone, altrimenti da Roma ci mette di più. Ah, eccola qua, eccola qua. Pordenone, via! Via Pizzati 32/2. Barra 2. Sul citofono che c'è? Angelo. No, ma che c'è? Sul citofono qualcosa? Vabbè, appena avete un lampeggiante blu sotto casa, mi raccomando, non fanno niente. Fanno una punturina. Non faccia resistenza lei, che non si tromba più. Sì, ma non capito. Si preoccupi, con la punturina. Poi glielo spiega ai signori. Con la punturina, i signori sedano anche i bollenti spiriti, non si preoccupi, la sedano abbastanza bene. Sia tranquillo. Provvedono loro, non si preoccupi. Ride. E ride. Interviene per dire non si tromba più. Cosa devo fare? Stasera lo sai che fa? Parenzo, una volta lo dicevi. La l'ingenuo sera cosa fa questo qua adesso? L'ingenuo. Va dagli amici e che fa? L'ingenuo ride, no, l'ingenuo. Parenzo, che era anche buonissimo. Fai il gradasso, va. Telefonato alla zanzara. Ho telefonato alla zanzara. Perché c'era prima quello di Happy Italy là. Italy, no? Ma chi? Ma no, chi? Quelle tre settimane. Ma tre settimane. No, perché era da Barisoni prima. Era ospite da Barisoni. Malvasia di Maion. Sì, allora? No, ma tu devi veramente farti una cura ricostituente di acqua e zucchero. Ma sei noi paleoveneti. Paleoveneti, ma di che stiamo parlando? Poveretti, Angelo da Pordenone. Sta male. Angelo è da segnalare veramente i servizi sociali. Ride. Al sindaco che fa il TSO a Pordenone. Chi è il sindaco di Pordenone? Ma che ne so, ma scusi, l'ultima volta che ha trombato, quando è stato? Dai, Angelo, vabbè, adesso anche tu però gli dai spazio. Ho capito. Ma... per quello che... ma quando è stata l'ultima volta, scusi Angelo? Io pensavo appunto, no? Quando è stata l'ultima volta? Ma se lei le tolgono il microfono, non tromba più pure lei! Ma guardi, questo lo credo proprio, Vabbè, ma l'ultima volta quando è proprio? Questo ride, qua è parlato. Non si capisce perché ride, poveretto. Ah. Adesso mi ha fatto ridere anche a me questa stronzata del microfono. E ride. Vabbè, Angelo, arrivano due, una punturina, così lei a trombare non ci pensa per qualche... un paio di settimane. La punturina fa sempre bene, grazie. È un gatto che ormai è tutto finito. Giardino, ruggisce tutta la... È con noi il direttore dell'Intraprendente, che non è, non è Sallusti, ovviamente, senior, caro Parenze, bensì il nipote Giovanni Sallusti. Buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Come andiamo? Come andiamo? Bene, bene, bene. Allora? Qui siamo circondati dai forconi, a quanto pare. Insomma. Ma il giornale. Giovanni, il giornale, voce, cioè, tutte il giornale di tuo zio. Il giornale di tuo zio è dalla parte dei forconi. Sì. Lo sai? Nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Ah, cioè, sta sbagliando? Guerra in famiglia. In questo caso, sì, assolutamente. Cioè, per te i forconi cosa sono? Scusa. In una parola, squadristi, ma non lo dico io, lo dice la logica, il sussidiario di Quinta Elementare, perché è gente che minaccia liberi imprenditori dicendo chiudi o ti facciamo una faccia così, è gente che entra in una libreria e dice chiudi o ti bruciamo i libri, senza rendersi conto di essere la parodia di tragedie di ben altro spessore, gente che circonda in 20 in una donna spintonandola, obbligandola a chiudere il negozio, è tecnicamente è squadrista, non è che... Cioè, i forconi sono squadristi? Assoluta, una parte di essi, mi rendo conto che è una parte, però non è esattamente un dettaglio, a me sembra rilevante questo. Ma gliel'hai detto a tuo zio o no? Assolutamente, certo. E che dice lui? Lui dice che sono come Alfano in questo caso. Ah, sei come Alfano, dice. Sì, è un insulto terribile per te, no? Beh, detto da lui non penso sia un complimento, sì, però... guarda, sei come Alfano. Che... Un attimo, pubblicità. Geniale. Allora, ovviamente il direttore generale dell'ABI non era Patuelli, ma Sabatini. Tale Sabatini, prima abbiamo mandato in onda un pezzo della Gabbia. È laica, la matriosca è laica. E suona Nicola da Bari ci ha chiamato. Nicola, dimmi. E niente, volevo solidarizzare con i manifestanti dei forconi. E solidarizziamo, dai. Sto vedendo che alcuni uomini politici stanno dando importanza al 10%, il 90% che invece non partecipa. Sì. Non è così, il 90% che non partecipa, però comunque per motivi sicuramente di lavoro, sicuramente per personali propri, va bene, ma comunque anche non partecipando sono convinti che quello che stanno facendo i forconisti oggi è una cosa che darà dei risvolti all'Italia. In Francia, in Piemonte, tutto bene, no? Creare disservizi. Far sentire la propria parola, far sentire la propria voce. Creare disservizi, se noi facciamo, bello, che bella cosa, vergogna. Se noi facciamo un corteo con i ceri in mano e con la preghiera fra le labbra, non otterremo mai niente. No, lei cosa vuole fare? Che fa di mestiere lei, scusi? Io il rappresentante. Il rappresentante. L'agente di commercio. Oggi sto rientrando in questo momento. L'hanno interrotto. Da stamattina, mi creda, da stamattina io ho fatto un confronto con l'anno scorso e gli anni precedenti. Confronto. Ho venduto il 30-35% in meno di quello che vendevo prima. Questo è un tema. Ma come pensa possa migliorare la sua condizione con queste proteste, francamente? Questo non lo so e non lo sa neanche. Sicuramente. Andando a votare, cercando di votare. Ma se le bloccassero le strade, e le impedissero di fare il suo lavoro, lei che cosa direbbe a quelli che bloccano le strade? Scenderebbe, andrebbe loro? Io sono solidale, aspetto la mia ora, due ore, eccetera, perché sono convinto che così perché non ci avrà un cazzo da fare, qualcosa. Perché non avrà un cazzo da fare. E basta solo di chiacchiere, non otterremo mai niente. Sì. Ho visto che i ragazzi che stanno organizzando il forcone si stanno dando da fare. Ma lei cosa farebbe col Parlamento, con i politici? Cosa farebbe lei? Niente, ogni democrazia ha necessità del Parlamento, dei politici, eccetera. Bene, questi dunque... attuali che non funzionano. Questi attuali. E quello che spesso sto sentendo dire, ma voi cosa volete? Voi cosa volete? Rivolto ai forconi. I forconi vogliono un'Italia che funzioni, vogliono pagare meno tasse, vogliono lei più è lavoro. Sicuro? È sicuro? Vogliono avere più sicurezza. Ma chi è che non vuole pagare meno tasse? Chi è che non vuole avere più lavoro? Chi? Il sistema, chi? Perché ci sono negli Stati Uniti, ci sono altri stati che io lo dico io, vogliono questi qua in realtà vogliono stanno meglio di noi. Questi qua vogliono più stato in realtà, vogliono più sovvenzioni, più soldi, più stato, non accettano. No, l'assistenzialismo mi creda, non funziona con noi che siamo liberi professionisti che lavoriamo in proprio. Noi non abbiamo mai per lei non è così. Di benché. Vabbè, di benché, sì. Capisce? Quindi non siamo assistenzialisti e non vogliamo assistenza da nessuno. Va bene, Antonio Reggio Calabria. Vabbè, è uno stato che funziona e chi è che non lo vuole? Antonio da Reggio Calabria, dai, Antonio. Cruciani. Dimmi. Buonasera. Senti quest'altro, Cruciani Codardo. Fermo, no, fermo lì. Ma non urlare. No, ma non urlare. Fatti gli affari tuoi, aspetta un attimo. Devo fare un'analisi della situazione. Ma non c'è nessuna analisi. Un attimo solo, Antonio. Cruciani Codardo, si sente che ti hanno tarpato le ali. Sei un voltafaccia. Ti vanti di essere libero e ti sei piegato anche tu al potere. Ti preoccupi, Parenzo? Preoccupati, Cruciani e Parenzo Brutti Finocchi. Avete staccato le linee, eh? Mi conviene anche chiudervi dentro il radio con due giri di chiave. Chiamatemi se vi va, se è di perdere lo stipendio. Non so che scrive questo qua, eccetera. Eccetera, col numero di telefono. Adesso ti chiamiamo, caro. Ti chiamiamo, no, caro. Ti chiamiamo. Ma che è chiuso cosa? Un tale da Bassano chiama? Del Grappa, Giuseppe Bassano del Grappa. Che vuoi, Antonio? Dimmi. Proviamo a non urlare, a fare un'analisi logica. L'analisi logica, sì. L'analisi logica. Sentiamo. Ma l'analisi logica. Senti una cosa, tu sei una persona molto furba e in gamba. Dimmi questa cosa. E mi dà fastidio quando dici certe fesserie. Sì. Allora, questi non se ne andranno mai a Ma casa. Questi chi? Questi il governo, chi? Quelli che ci governano. Ma quelli che c'è il governo, non è che quelli che ci governo, c'è un governo. Il Parlamento, la maggioranza, l'opposizione, sì, c'è tanta roba. Ma non capito? Se ne andranno mai. Per 7 mesi che questo l'hanno messo per risolvere qualche problema, non ne ha risolto nessuno. Ha rinviato tutto a 2014, 2015, 2016. Non ha fatto niente per risolvere il problema del lavoro. Parliamo del lavoro, un esempio. Cosa sta facendo? Ma lei anche... Tu sei una persona intelligente, non riesci a... Guardi, io sono d'accordo con lei, ma sono d'accordo con lei, ma siccome sulla questione del lavoro ci sono 40 milioni di ricette in giro, lei mi deve dire che cosa farebbe lei, cosa farebbe lei, perché io da questi forconi, dai vari movimenti, non ho capito quasi nulla di quello che vogliono fare. Certo, il signor Chiavegato vorrebbe che si riducessero le tasse. Allora, ma no, ma che cosa, che grande cosa, certo, no, sono d'accordo. Vorrebbe. 20 anni anche di berlusconismo, ha raschiato il barile, sì. Non c'è una lira. Siamo all'analisi così, siamo all'analisi. Berlusconi ha distrutto. Comunque, la maggior parte di questi vogliono l'uscita dall'euro. La maggior parte di questi vogliono l'uscita dall'euro. Sono grillini destrutturati. Vabbè, comunque, poi. Grillini destrutturati. Fatto Berlusconi è stata sbagliata e siamo arrivati a questo punto. Vabbè, Antonio, grazie. Oh, abbiamo con noi Danilo Calvani, buonasera. Buonasera a voi. Oh, proprio il leader. Ce l'ha la voce Calvani? Poca, mettete qualcosa, sono proprio poca. Poca voce, beh no, però insomma ci siamo a voce. Caro Calvani, allora vogliamo uno dei leader del Movimento 9 dicembre. Danilo Calvani. Allora, io subito voglio chiarire la questione della Jaguar. Di chi cazzo è questa Jaguar, caro Calvani? Allora, la Jaguar è del signor Walter Dell'Unto. E come si chiama questo? Walter Dell'Unto. Ma chi è? Parente di Dell'Unto, quello dei socialisti? Non credo, eh. Vabbè, comunque male sei quello. Non c'è niente di male. Questo di Priverno, abita a Priverno. Di Priverno, ma c'era un Dell'Unto famoso dirigente socialista. Chi è questo qua? Non lo so. Questo qua c'ha 49 anni, potrebbe essere lui, non credo, eh. Parente, ma non c'è niente di male. Ma se non lo sai, cioè non sai chi ti ha prestato la macchina. Ma scusa un attimo, ma perché di questo qua la macchina? Saranno affari suoi, perché è sua, ma anche da me. Perché... No, ma perché lei stava su questa macchina che gliel'ha prestata? Perché noi non abbiamo, io personalmente non ho macchine per spostarmi, quindi spesso me le prestano sempre, sì. E quindi ci spostiamo con varie macchine. Per esempio stasera c'è una fetta, perché l'amico Mirko mi ha prestato la fetta, l'altra volta sono andato. Ma chi è questo Dell'Unto? Che mestiere fa sto Dell'Unto? Lui è camionista, ma l'avete ammazzato, ma tutti i giornalisti chiamano a casa, la moglie si è messa paura, l'ha chiamato, ma chi sta a portare un bambino? È successo un macello, guarda. Mamma mia. Vabbè, ma ho capito, ma è pignorata sta Jaguar? Così dicono. Sì, così dice lui. No, lui ha fatto vedere tutto quanto, alle televisioni, ha mostrato tutto. Poi è passato solo il primo messaggio. Oggi invece vedo che molti giornali stanno correggendo. Però scusi un attimo, Calvani. Ma come ti è venuto in mente di presentarti a una manifestazione dove fai l'insurrezionalista con la Jaguar, poi? Non è bella la cosa, su. No, infatti è un grave reato presentarsi con la Jaguar, perché lui ti dà un passaggio. Bisogna farlo assolutamente come lo fanno i politici. C'è una persona che ti dà un passaggio, si offre per fare una battaglia, un reato. In bicicletta dovevi andare. Questo sarebbe il reato. Ma no, ma non è nessun reato. Con rubo, con la tubuna è un reato. Ma non è nessun reato, no, certo. Io ci posso andare in bicicletta. Se poi mi fate vedere come si fanno a fare 800-900 km in bicicletta. Ma no, ma che c'entra? Se mi fate vedere io ci vado. Ma no, ma non devi fare 800-900 km. Ma non ti devi stupire che poi la comunicazione sia concentrata anche su questo. Questo non ti deve stupire. Io non sono avvezzo a queste cose, ovviamente, come potete capire. Questa cosa ci è cambiata un po'. questa notorietà è arrivata un po' all'improvviso. Però noi non è che abbiamo parcheggiato la macchina di nascosto, ne avevamo in piazza, quindi senza nessuna maniglia, anche perché non è la mia, quindi questo mi ha preso e mi ha dato un passaggio. Dormimo in macchina, non abbiamo soldi, dormimo in macchina. Tu hai dormito in macchina? Sempre, sempre. Io stamattina sono alle 8:15 a casa. Dopo che ma chi te lo fa fare? Mi spieghi chi te lo fa fare? Adesso abbi pazienza. Però. Allora, questa è un'ottima domanda. Chi me lo fa fare? Chi te lo fa due, fare? Costo due le cose. Io ho un'azienda all'asta, quattro figli, al disastro. Come sono due le cose? O continuo a prenderlo in quel posto o mi incazzo e reagisco. Sì. Se tutti gli altri italiani fanno così, allora probabilmente vale la pena. Ho capito, ma tu che vuoi? L'obiettivo, l'obiettivo qual è? L'obiettivo qual è? Mandare a casa, mandare a casa. Benissimo. I parassiti delegittimati al nostro Parlamento. Benissimo, mandare a casa per fare che cosa? Questo famoso governo provvisorio da chi deve essere formato? No, quale governo provvisorio? Non c'è un governo provvisorio. E tu l'hai detto mille volte, un governo provvisorio. Quando mandiamo a casa il Parlamento ci vuole un governo provvisorio. No, no, guardate. Ma come no? No, c'è un audio. Guardate. La nostra Costituzione dice un'altra cosa, l'articolo 82. Quindi dice che si va a votare. Il provvisorio ci rimane il governo in carica, ma senza poteri, perché deve portare alle elezioni. Vabbè, ma voi volete nuove elezioni, allora? Tutta sta roba per dire nuove elezioni. Per dire che ci vogliono nuove elezioni. Oh, caspita, perché secondo te questi se ne vanno così facilmente perché solamente la nostra Corte Costituzionale è legittima? Ma ci saranno le elezioni. Ma questi secondo te cambieranno l'Equitalia e ci daranno tutti i morti che sono stati fatti? Caspita, non lo sapevo! Ma Befera, Befera, secondo te è un assassino, Befera? Befera è, diciamo, la mano armata di chi sta assassinando i cittadini italiani, quindi... Cioè, ma se ce l'avessi davanti, che cosa faresti a Befera? Gli direi che si dovrebbe vergognare, perché per lucro, per soldi, perché tutti i soldi che prende, molti italiani stanno morendo, sono morti, si stanno suicidando, molte famiglie stanno al disastro, i nostri figli non hanno futuro, anche per e se ci avessi davanti Letta? E se avessi davanti Letta? Ma per carità, non vorrei che ricordi qua, se lui viene pagato dal nostro Parlamento, scusate, viene pagato da noi, da Bilderberg. Ancora questo Bilderberg, dai, basta Galvani con sto Bilderberg, su la caccia all'untore. Ma tu manco sai che è Bilderberg, ma infatti guarda, mi sono sbagliato, stavo a pronunciare una cosa, mi sono proprio sbagliato, scusate mi sono sbagliato, ma capita, sei uno che è contadino come me, scusate. Ma no, ma non, ma è, non è quello, quindi, ma manco so che davvero che cos'è Bilderberg, me lo dica lei, non lo so, mi uscita in bocca, ma dai, ho visto al bar prima, sono andato al bar, ho visto Bilderberg e dico quindi... meno male che sei pure spiritoso. Io voglio capire una cosa: uno ha diritto di manifestare, ma bloccare le strade? No, bloccare le strade. Dove sono bloccate le strade? A 20 miglia adesso, per esempio. Avete fatto la stessa cosa oggi con la CGL e con la CISL, che hanno bloccato, sono usciti il corteo. Se bloccano va sempre male. Non è che certo che facciamo la stessa cosa. Io dico la stessa cosa. Quindi adesso furono carrefferente la Camusso quando l'autista la prende con la macchina, visto che ha fatto iniziativa Ossi. Che c'entra? Che c'entra la Camusso? Scusa, che c'entra la Camusso? Se l'avete fatto con me, è giusto, che non è manco mia, quella che va a prendere la Camusso è nostra di macchina. Cioè lei dice ai sindacalisti, no, questo è interessante, la Camusso va con una macchina pagata altro che Jaguar, la Camusso va con una macchina pagata da noi, giusto? Certo, ma tutti quelli che hanno la Camusso mi sembra che vanno con le macchine. Ma come c'ha la scorta, in quanto forse avrà la scorta? Perché il Ministero degli Interni gli ha dato la scorta. Ah, ecco, ho capito. Dunque, secondo lei ma è normale che sia così? Non dovrebbe andare con l'auto blu la Camusso? Non è auto blu, è la scorta. Ma qualcuno mi dà un passaggio a me, perché il problema è che qualcuno mi dà un passaggio a me, se c'è il finimondo. E questa che va con le macchine pagate da noi, lei o altri, che sicuramente qualcuno avrà diritto, ma la grande maggioranza non ha diritto. E come mai non ci sono queste foto? Però... Non avete fatto i forconi. No, per ma le questo blu, ha ragione. Però, sui privilegi dei sindacati, Galvani ha ragione, ragazzi. Ma però, sì, secondo ma me, ogni tanto dice. Ogni tanto, bene, no, ci sono un sacco di privilegi. I permessi sindacali. I permessi sindacali. I permessi sindacali non sono. I permessi sindacali. Sono diritti del lavoratore, non c'entra i sindacali. Ma quali diritti? Ma quali diritti? I permessi sindacali sono un diritto di un lavoratore. I sindacati sono i primi ladri? Ma sta scherzando. Il braccio armato di queste parassiti. Ma state scherzando. E con i sindacati che facciamo, Galvani? Io sono un contadino, sì. Il presidente della Coldiretti prende circa 3 miliardi netti l'anno per far tetti. ma stiamo scherzando. Per fare ma che prendetevela con l'associazione, ma la Coldiretti, ma scusami, ma guarda quanta confusione che c'è. Ma gli iscritti della Coldiretti se la prenderanno col loro presidente se sono vere le cifre che tu hai detto. Ma perché fai questa confusione, Calvani? Perché fai questa confusione? Perché? Perché fai un frullato dove ci metti? Ma un attimo di che cosa? Il Parlamento italiano ha fatto leggi? Ha fatto leggi dove sei costretto ad andare ai patronati, quindi peggio del ventennio, peggio, ha fatto leggi dove sei costretto ad andare ai sindacati, quindi o hai la tessera o tu non prendi la pensione, non fai le prove. Ma ci vorrebbe, Calvani, ci vorrebbe un uomo forte qui in Italia, secondo lei? Non credo proprio, no. Ci vuole un popolo forte, un popolo che faccia rispettare la propria Costituzione. Ma stiamo scherzando. Allora, un attimo solo, che fra poco un attimo. Abbiamo già avuto la storia, e la storia ha insegnato quello che è successo. Sallusti, sei sempre convinto, Giovanni Sallusti, non il direttore del giornale, ma il nipote. Sei sempre convinto che questi forconi, detti forconi, sono dei golpisti? Che cos'è che hai detto? Scusa, sono dei. Degli squadristi. Degli squadristi, sei sempre convinto da quello che dice Calvani? Ma in una parte sì, tra l'altro mi sembra che Calvani sia stato dirigente della Lega Nord Lazio, che sì. A parte che è un ossimoro, però come dire, il mondo dei partiti parassiti l'ha anche conosciuto dall'interno. Sei un parassita pure tu, dice Sallusti. Dico questo, però dico che insomma un po' di ipocrisia c'è. Un po' di ipocrisia c'è, poi vorrei capire cosa vogliono. Vogliono più Stato, più protezionismo, più spesa, più sussidio, vogliono aggredire la spesa pubblica, tagliarla, finora nessuno dei forconi. Comunque la roba del governo provvisorio l'hai detta, Calvani, la roba del governo. Ma Sallusti che lavoro fa? Fa il giornalista. Il giornalista. Di che giornale? Un giornale piccolo che si chiama L'Intraprendente. È il nipote di Sallusti, quello del giornale, capito? Scusi, ma Sallusti, scusi, il tuo giornale prende fondi pubblici? No, assolutamente no. Vabbè, allora già va un po' meglio. Già è meglio. Proviamo a stare sul mercato, senza protezionismo. Un attimo solo che abbiamo la pubblicità. Torniamo subito con Danilo Calvani, un leader del Movimento 9 dicembre. Questa storia del governo provvisorio però non ce la racconti giusta, Calvani, un attimo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Su di me, ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio. Ovviamente Calvani è sparito, come al solito. Vabbè, adesso lo recuperiamo. Gira sempre intorno a me e balli sul twist, e balli sul twist. Il poliziotto del COISP, il sindacalista del COISP Maccari, che dice che la ragazza Notav che baciò il casco al poliziotto in Val di Susa deve andare sotto processo per violenza sessuale. Ce l'ha denunciata per violenza sessuale. Ora, tu hai detto, Parenzo, una cosa provocatoria, ma che vuol dire provocatoria? Certo. Adesso io sono sempre dalla parte delle forze dell'ordine, a meno che non facciano delle cose vergognose. Fatto una provocazione, era bella come l'ha argomentata. Ma non è provocazione, era serio. Sì, era certo, serio. Infatti la denuncia l'ha fatta comunque, ma ha detto l'argomento. Che cosa sarebbe successo a parti inverse? È una giusta riflessione, visto ma va bene, a parti inverse, d'accordo, ma che significa a parti inverse? È chiaro che non è che un poliziotto va da una e gli dà un bacio. Quella o mette è una le mani forma, a qualcuno, una forma dai. Di molestia nei confronti di una persona bene, che stava lavorando. D'accordo, quindi, infatti noi l'abbiamo criticata, esatto, all'epoca, esatto. Capito, però denunciarla per violenza sessuale. Capisco la provocazione dai, del sindacalista di poliziotto. Dai. Una botta nel braccio e poi all'altro. La tipa che ha baciato il poliziotto sul casco, lì, ha dato quel caso. Cosa farebbe lei? No, l'ho fatto, l'ho denunciata. Perché cosa? Uno è un oltraggio. Poi? E lei adesso sembra strano, ma anche violenza sessuale. Perché se io adesso vengo lì a lei, la bacio sulla bocca e lei non vuole, cosa pensa che sia il reato? Se un poliziotto si togliesse il casco non per fare la marchetta, ma per baciare un manifestante così a caso, sarebbe fuori la terza guerra mondiale sui giornali. No? E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una botta col bacio e poi all'altro, una botta nel braccio e poi all'altro, una botta col bacio e poi all'altro, una botta. Giorgio Reggio Emilia, buonasera, Giorgio. Ciao Crociani, buonasera. Dimmi. Ascolta, dato che ti sento tutte le sere, volevo chiederti solo, farti un paio di domande. Una si riferisce a quello che tu contesti, il fatto che abbiano fatto chiudere dei negozi per fare questa manifestazione dei forconi. Scusi, se uno va in un negozio e dice devi chiudere perché gli altri chiudono, questo è un teppista, un violento. Insomma, sai, è ovvio che è gente disperata. Ma che gente disperata? Questi sono delinquenti. Quali disperati? Sono delinquenti prima di tutto. Che scusa, disperati? Mi lasci finire un attimo. Ma io ti lascio finire quando voglio io. Dai Giorgio, dimmi. Va bene, ok, ci sto al gioco. Volevo dirti questo, il fatto di farli chiudere sicuramente in quale modo non lo so perché non ero presente, quindi non posso dire, certamente non li hanno picchiati, almeno per quanto risulta. È chiaro che le manifestazioni fatte anche quelle con i sindacati hanno sempre bloccato il traffico, è sempre stato così, da che mondo è mondo. Ci sono quelle autorizzate e quelle non autorizzate. Volevo fare, ha però, se me lo consenti, è questa. Come mai? Capisco che il tuo mestiere è da provocatore, altrimenti non saresti lì a parlare, quindi devi provocare, certamente ti fa, sei anche bravo, ma devi capire che le persone che sono per strada adesso, io sono appena uscito dall'autostrada, ho subito anch'io dei disagi, faccio 350-400 km al giorno. Però mi associo a queste persone e chi sta parlando è un imprenditore che grazie al cielo, nonostante la crisi, non subisce dei grossi danni, se non quelli di dover pagare delle tasse esose. Esosissime, certo, non c'è dubbio, su questa ragione. Esatto. Dunque... Allora io voglio dire, la domanda è molto semplice, queste persone, ripeto, sono persone distrutte dalle banche. Sì. Il fisco che è esageratamente esoso, dove devi anticipare addirittura quello che tu ipoteticamente guadagnerai il prossimo anno, che è una cosa assurda. Poi? Questo è tutto vero. Poi tutto vero. Ma io vorrei capire, tutte queste persone qua, vero, no? Aspettate, tutte queste persone, no? Che si incazzano con il fisco, con lo Stato, col sistema fiscale italiano, hanno tutti ragione, ragionissimo, con lo Stato ladro. Ma a febbraio scorso, quando si votava e c'era la possibilità di scegliere persone che magari si battevano contro questa cosa, ma dove cazzo stavano? No, e cosa hanno votato? Sì, no, cosa hanno votato? Perché c'erano delle persone, che dicevano esplicitamente di voler combattere queste cose qui. Invece avete votato il Partito Democratico, avete votato Forza Italia o PDL, come diavolo si chiamava, che da vent'anni non hanno fatto nulla da questo punto di vista sulle tasse, ha capito? Le persone quando vanno a votare le persone che le presentano davanti, quindi è quasi una dittatura. No, ma queste persone che manifestano, chi hanno votato, dove erano tutte queste persone che protestano sul fisco? Dove erano a febbraio? Dove erano? Ma scusami, se tu mi presenti Crociani e basta per votare. Tu che cosa hai votato a febbraio? Cosa hai votato a febbraio? Cosa hai votato a febbraio? Da 50 anni Grillo le solite persone, che cosa cazzo vado a votare? Cosa hai votato a febbraio? Le persone, quindi mi obblighi. Vabbè. Indirettamente. Ma non è così. A febbraio cosa hai votato? Mi dai la scelta, e adesso proprio per questo la legge elettorale, il famoso porcellum, non deve essere cambiato. Se tu mi dai la scelta e mi fai votare una persona che io conosco. Ma non è che uno manifesta per la legge elettorale, dai. Chi hai votato tu a febbraio, Giorgio? Prego? Chi hai votato a febbraio? Ma guarda, io ho sempre votato già dal 94, dal 93, quando avevo messo su Berlusconi Forza Italia. Sì, allora, non hanno diminuito le tasse, dunque non puoi rompere i coglioni. Poi ho votato anche il PDL. Ma perché? Per una scelta opposta, perché di sinistra io non lo sono, come mia natura. Tant'è vero che mi sono fatto da solo e le mie aziende le ho create io da solo, dal nulla, lavorando 14-15 ore al giorno e facendo 350-400 chilometri. Ma detto questo, ripeto, io posso essere da una parte, fra virgolette, non ho capito più niente, Giorgio, grazie, ciao. Però grazie. Io perorò e sono convinto e sono solidale con queste persone. Abbiamo capito, sei solidale, non si capisce perché, ma sei solidale. Sta facendo scalpore, caro Parenzo, quello che ha detto ieri sera qui alla Zanzara. Una giornalista del TG3, e dico TG3, giornalista del TG3, Costanza Miriano, che spero amici miei, che non venga lapidata per quello che ha detto, venga lapidata, perché questo sta avvenendo adesso online e vedrete anche domani un po' sui giornali, che venga lapidata, semplicemente perché pensa delle cose che io non condivido assolutamente, sull'aborto e sugli omosessuali. Non le condivido assolutamente, sono cose certo un po' forti quelle che ha detto, non c'è dubbio, le sentirete tra poco, delle cose molto forti, ma ha tutto il diritto di dirlo. E nessuno parli dei miei giornalisti perché lavora la RAI, il TG3, le può dire, e ci deve essere uno Stato che le consente di dire queste cose. Iniziamo con l'aborto, che secondo lei va proibito. Dovremmo essere tutti costretti ad aiutarla ad accogliere questo figlio, che è un bene. Adesso, a parte che adesso ci sono molti mezzi per decidere anche prima, e purtroppo invece la legge, ancor più la RU486, la pillola, per esempio lo può abbandonare dopo la nascita, come si può lasciare in ospedale senza riconoscerlo, e sai quante famiglie sono in fila per l'adozione. Ancora. Accogliente è felice, se non uccide il bambino che è in grembo è felice. Io ne conosco tantissime che hanno abortito e poi sono rimaste infelici per tutta la vita. Cioè non è una questione di dovere, è una questione di felicità, è la nostra vera natura. Il paragone che fa tra siccome difendiamo le mozzarelle DOP, dovremmo difendere l'unione tra uomo e donna. Cioè, voglio dire, sì, no, noi ci curiamo tanto che la mozzarella non sia, che sia DOP, che sia eccetera. L'uomo e la donna DOP sono un maschio e una femmina che generano una vita. Questa è culturalmente modificati, sì. Putin, uomo dell'anno. Sì, io credo che Putin, insomma, intanto è l'uomo dell'anno lui, nel senso che è lui che ha fatto delle cose che hanno cambiato il corso degli eventi in quest'anno. Comunque Putin è contro la propaganda omosessualista, contro le lobby gay. Siamo qui 800 24 00 24. Alberto da Biella, buonasera Alberto. Buonasera. Dimmi. Lo confesso, io ho votato Grillo. Sì. E volevo telefonare perché volevo replicare le dichiarazioni che ha fatto sentire circa 20 minuti fa di Mughini. Sì. Il quale ha dato della... non mi ricordo più come... alla signora Taverna, l'onorevole Taverna della... Sì. Insomma, non mi ricordo più il termine. Poi del pagliaccio a Grillo. Ecco, lui l'ultima volta che l'avete intervistato, che è stato il vostro ospite, ha avuto il coraggio di dire che è amato, che ma gli chi? Hanno amato. Ah, Mughini. Mughini. Ha avuto il coraggio di dire che Mughini era un grande politico. E che era... Amato era un grande, è stato un grande politico, eccetera, eccetera. Allora, la sua opinione, qual è il problema? Beh, insomma, cioè, si deve vergognare Mughini per quello che dice? No, ma prima di dare dei giudizi, comunque, su chi ha votato certe persone, mentre lui difende a spada tratta Giuliano Amato. Dice che è una risorsa per il popolo italiano. A me sembra che invece sia il popolo italiano una risorsa per Giuliano Amato, fino a prova contraria. Volevo solo vabbè. Dire questo. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zanzara. Scusate se vi ho disturbato. La zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, zazza. Oh, mi sono dimenticato, caro Parenzo, questa roba delle bombe carta. Una certo, bomba carta alla Sapienza, caro Parenzo. Con le forze dell'ordine che finalmente hanno reagito dicendo prendiamone qualcuno. Troppo poco ancora, ancora troppo poco. Finalmente hanno fatto il loro lavoro. Certo, finalmente però, finalmente una bella reazione. Finalmente le bombe carta all'università. È questo che io ti contesto. Le bombe carta all'università. Certo, le bombe discute, carta. Ma ovvio, ma una cosa. Le bombe carta, capito? Delinquenti, bombe carta. Restare. Oh, ma che cos'è oggi? Mi piace e c'è un rumore che non mi dà pace. Sembra il motore di un aeroplano che si avvicina. Fabrizio da Padova. Ciao ragazzi, mi stupite. Ma perché ve la prendete con quei poveri che stanno facendo queste manifestazioni? Non fanno niente di male, stanno manifestando il loro disagio. Sì. Bisogna manifestare senza rompere i coglioni agli altri, però, sulla strada, senza mai cose illegali, senza bloccare le frontiere, i caselli, eccetera, eccetera. Oppure tu sei della partita tra quelli che dicono che bisogna invece provocare disagi? No, non bisogna. Io sono contrario, in linea anzi, sono contrario agli scioperi. Ma queste persone sono persone disperate. Poverini, stanno cercando di far capire ai nostri governanti. Va bene, abbiamo capito. Che devono cambiare strada. Si fa una bella manifestazione con dei cartelli e poi tutti a casa. Ok? E cosa stanno facendo? Ma così funziona, però. Così funziona in democrazia. Non c'è la presa del potere. Lei vorrebbe la presa del potere da parte della piazza? No. Guai. Meno diciamo male. Che le immagini che abbiamo visto in questi giorni non è esattamente come la dice lei, tutta rose e fiori, cartelli, pacatezza, allora, anche slogan. È successo di tutto in questi giorni, eh? ma non dai manifestanti, non dai manifestanti. Beh, io le rotture di scatole che ho visto dai manifestanti erano assolutamente pacifiche. Vabbè. Punto. Roberto e da Firenze, ho capito, Roberto da Firenze. Sì, buonasera. Dimmi. Io questo finto perbenismo di Firenze mi fanno veramente incazzare. Cioè? Io volevo dare una testimonianza, no, solidarietà per questo movimento di questi furconi. Ma vado oltre. Questi non solo dovrebbero incazzarsi, però, cioè le manifestazioni fatte con il cartellino questo non mi va, non risolvono niente, quindi è inutile che vanno. Sì, e cosa quindi dovrebbero fare, scusi? Fare casino, cioè in che senso? Se spiega casino come? Ma il casino dovrebbero farlo, ora creare sempre, diciamo, un seguito sempre maggiore, poi arrivare a Roma. E lì ci deve scappare il morto. Ah, deve scapparci il morto? Magari meglio tra le forze dell'ordine, no? Meglio tra le forze. No, assolutamente. Fra i 945 e meno i 400 deputati che sono lì per la prima legislatura, che giustamente ci deve scappare un morto tra i deputati, lei dice. Sì, siamo alla fra quelli che ci stanno rompendo i coglioni da 20 anni, sì. Ma anche più di uno, perché probabilmente devono... Ma chi li ha votati quelli, secondo lei? Persone come lei li hanno votati? No, perché sai come te. No, io li ho votati, certo, qualcuno di questi li ha votati, ma io non li voglio ammazzare. Ma anche tu li hai votati, anche tu li hai votati. No, assolutamente, perché io... Chi hai votato? Ho Grillo. Hai votato Grillo. Allora, dunque, bisogna ammazzare. Scusa, si può telefonare in una radio così sentita e dire, lasciare il numero di... No, bisogna che ci scappi il morto, ammazzare uno in Parlamento tra i deputati che non sono lì per la prima volta, giusto? Ma è una cosa incredibile. Si devono rompere i coglioni perché... Quelli che sono lì da 20 anni ci hanno veramente rotto gli inutili, dice vai a fare la manifestazione con il cartello. Con il cartello ti prendono per pazzo e non gliene frega niente a nessuno. Il giorno dopo... Sì, invece cosa bisogna fare? Smettono di parlare. Bisogna ammazzare un deputato. No, uno. Io sono convinto, ovviamente se scappa il casino ce ne scappa anche più di uno, se la gente dimostra veramente ne abbiamo parlato. Come si fa a distinguere tra quelli che stanno in Parlamento da più di 20 anni e quelli che ci stanno da una legislatura? Scusi, no, come si fa a distinguere, no, per capire? Molto semplice, non si fa molto bene perché ci sono i nomi di tutti, cioè il trovare il sistema di fare casino è molto semplice. Guardi, mi scrive un ascoltatore, anch'io sono disperato, infatti vado a fare il giardiniere, a mettere le mani nella merda e uso il forcone per tirare l'erbaccia sul camion. Perfetto. Se uno bene. È disperato di lavoro manuale, terra da zappare, verde da pulire, ne trova a pacchi, si guadagna pure. Mi scrive questo Lele che le dà due schiaffi in faccia, le dice lei è un coglione. Che va a fare il casino per le strade, non è vero che è soltanto gente disperata che praticamente non sa come arrivare in fondo al mese. Cioè questa è una barzelletta, state raccontando voi. E allora invece? Perché c'è anche gente che ha il suo lavoro dignitoso e porta a casa e che si è rotta comunque i coglioni. Vabbè, lei vuole il morto, ho capito, lei vuole il morto. Io, vabbè. Io sono per il casino, ma il casino perché soltanto col morto, il casino col morto, ma anche col morto, più di uno, benissimo, più di uno. Vabbè, Roberto, segnaliamo tutto, non si preoccupi. Grazie. Non mi moleste moschito. Non mi moleste. E vabbè, che dobbiamo fare? Questo vuole il morto, eh? È con noi Daniele Farina, Sinistra Ecologia e Libertà, SEL, buonasera. Buonasera, sono un morto che cammina, mi sembra di capire. Beh no, lei è la prima volta. Da quanto è in Parlamento? È 8 mesi questi. Dunque lei si salva? Secondo questo ascoltatore lei si salva? Stai sereno, Roberto. Ma non è di consolazione, non è assolutamente di consolazione. E che vuole? Questo vuole ammazza uno? Poi come si fa a distinguere quando bisogna ammazzare le persone tra quelli appena entrati in Parlamento e quelli che stanno più di una legislatura? Li conosciamo, ha detto abbiamo le foto, ha detto. Ah, no, abbiamo le foto, ha detto. No, li conosciamo, sappiamo chi sono. Li conosciamo. Ma guardi, io non ho nessun problema, se ancora in linea questo ascoltatore può venirmi anche a trovare a casa, abito a Niguarda, a Milano, non c'è problema. Sappia però che io sono abbastanza rognoso, piuttosto mordace. Beh, diciamo che lei ha qualche precedente. Il suo passato, come diciamo, dire, no? Ti fa gloria. Esattamente. Qualche precedente. Sai che Grillo ti chiama ancora un pregiudicato, sì? No, Grillo mi ha fatto un grave torto. Nel 2007 ero un wanted, un ricercato, e oggi purtroppo sono un abusivo, semplicemente un abusivo. Ah, un abusivo, sì, è vero, un abusivo. Perché è ricercato piacevole, devo dire. Prima volta che incontro Beppe gli farò la mia rimostranza. Perché è stato processato, condannato per fabbricazione, detenzione e porto abusivo di famiglia. È un cavallo, certo. Si chiama, cosa a Milano molto conosciuta, certo. Anche nel resto d'Italia. Vabbè, sempre reati sono, su, dai, è inutile. Sì, però sono quelli delle lotte sociali. Forse il signore che inneggia dovrebbe anche guardare indietro, non soltanto avanti. Vabbè, ho capito, non è che esso reati sono quelli solo delle lotte sociali. A me non me ne frega niente. Però io fra la corruzione e altro e le lotte dei ragazzi ci vedo la differenza. E questi che stanno in piazza adesso non sono ragazzi, ma mi sembra che dobbiamo parlare d'altro. Ma che sono questi che stanno in piazza? Sono di destra? Ci ho preso di tutto, credo che l'abbiamo analizzata a lungo, anche ma, su... Ma so di destra o no? Io in Jaguar non ci sono mai andato alle manifestazioni, via. Senti Farina, allora, no, dobbiamo dire una cosa, caro Parenzo, noi siamo, non dico a favore, vorremmo essere tutti in Uruguay, diciamo la verità, certo. Tutti in Uruguay, dove hanno legalizzato, credo, i matrimoni tra omosessuali, se non sbaglio. Eppure e soprattutto la marijuana, cioè con una grandissima operazione in cui lo Stato ci guadagnerà, speriamo, in cui forse si eliminerà il traffico, il primo paese al mondo, al mondo. Allora, una roba del genere la vuole fare pure Farina in Italia, ha presentato un disegno di legge in Parlamento, lo state presentando, cioè dove si acquista, cioè, in farmacia, come immagini questa cosa, cioè dove si potrà vendere secondo te, dove si dovrebbe vendere la marijuana, cioè le canne dove si potranno vendere in appositi? Allora, la novità è che noi abbiamo degli esempi, il Colorado negli Stati Uniti, altri stati dell'America di Obama sto parlando, però sono dei sistemi diversi. Questo modello invece uruguaiano è un modello straordinario perché è uguale ai nostri monopoli di Stato. Quindi noi abbiamo delle serie storiche quantitative che ci permettono di fare delle stime. Sì, ma tu in Italia dove lo venderesti? Dove la venderesti la marijuana? Le canne? Su licenza. Su licenza. Ovviamente. Cioè privati su licenza. Sì, esattamente. Questo è il modello del monopolio di Stato. Tu ancora le fai le canne? Te le sei mai fatte? Ma sì, me le sono fatte certamente, anche in abbondanza. Non so se, come dice il nostro dottor Serpelloni, che dirige il Dipartimento delle Politiche Antidroga, apre buchi nel cervello, questo è possibile. Però adesso è un po' di anni, insomma, sono fasi della vita che passano. L'età. Beh, scusa, quante te ne facevi? Anche più di una al giorno? Ma assai poche, devo dire, assai poche. Altre droghe? Io sono un proibizionista, no, assolutamente, sono un proibizionista che è diventato antiproibizionista. Cioè, come? Eri proibizionista prima? Assolutamente sì. Cioè tu uno di quelli di un cavallo, eri proibizionista sulle droghe? Assolutamente sì. Dopodiché diciamo, ci sono cose che ti aprono gli occhi, cominci a pensare e diciamo con le... Ma non mi dire ogni tanto qualche canetta te la fai pure tu, dai, su. Ma attualmente da una decina d'anni no, devo dire, però siamo pronti, come dire, a dare il buon esempio. Cioè in che senso? Sei pronto a ricominciare? Serve per approvare una legge che toglie alle mafie il potere che hanno oggi e a dare allo Stato qualche miliardo di euro che possono essere ben destinati, possiamo fare anche la testimonial senza problemi. Ma anche nel cortile della Camera, sai, lì nel chiosco, quello... Se serve per far approvare una legge giusta, anche lì tutto si fa. Mi sembra che abbiamo un grande maestro, Marco Pannella, che non si è destinato. Scusa un attimo, però io voglio una canna anche in Parlamento. Ma le canne sono molto meno dannose dell'alcol? Epidemiologicamente, parola un po' difficile, sì, molto meno dell'alcol e molto meno anche del tabacco. Addirittura meno del tabacco? Sì, due o tre posizioni in meno. Cioè se uno si fa una canna al giorno, secondo te, fa meno male di un pacchetto di sigarette? Sì, direi assolutamente di sì. Se tu mi dicessi una sigaretta e una canna, ne discutiamo, un pacchetto di sigarette, penso abbiano una... Anche mezzo pacchetto. Forse anche mezzo. Anche mezzo. Cioè, in sostanza, l'alcol invece... Vabbè, l'alcol entriamo, diciamo, in una epidemiologia devastante. Cioè peggio l'alcol della canna. Andiamo dal medico di base, facciamo due domande, credo che la risposta arrivi in qualunque dei nostri ambulatori, studi medici, eccetera. Cos'è che ha detto Giovanardi l'altro giorno? No, stamattina ha detto una cosa, Giovanardi, sui buchi nel cervello. Aspetta un attimo, sulle canne, i buchi nel cervello. Giovanardi. L'ha sentito Giovanardi oggi? No, ha detto una cosa sui buchi del cervello, vabbè, non me la ricordo. Ma io voglio dire una cosa, una volta tu hai detto una frase sulla buvette dopo le 22, che è successo? Che bisognava vietare gli alcolici. Molto fuori dalle righe, io che sono un antiproibizionista storico, ho detto però attenzione, non si guidano gli aerei o le macchine sotto effetto di sostanze stupefacenti. Cerchiamo di non guidare il paese sotto effetto di... Vabbè. Che è una roba molto banale. Bisogna proibire alla buvette il... Diciamo, smettiamo di venderla, insomma, dopo le 22, così magari, insomma, se arriviamo a luna di notte, ci arriviamo in grado di votare. Comunque, alla fine, un bicchiere di vino fa più male di una canna, sì. Ma non lo so, secondo me sono equivalenti. Non sono equivalenti. Una differenza. L'importante è non mettersi al volante né dopo l'una né o dopo l'altra, ecco. Ma secondo me in Parlamento si fanno le canne? Bah, questo non lo so, di odore non ne sento, mi dicono che un tempo erano diffuse altre sostanze, non so se adesso, abbiamo avuto inchieste, quelle delle iene, gli alcaloidi, la cocaina, abbiamo avuto dei tipi, non lo so questo. Si va nei bagni di Montecitorio non c'è qualche sospetto Non mi è mai capitato di incontrare, poi ho visto negli anni inchieste giornalistiche battute, però non lo so. Comunque, mi piace, ma non vi riesco a dare benzina per alimentare la trasmissione. No, no, no, per carità, ma noi siamo contenti così, siamo tranquilli, siamo appagati oggi, non c'è problema. Ma dimmi una cosa, tu metteresti il nome dei poliziotti sul casco? Assolutamente sì. Ah, ma il nome o il numero? Il nome, anche il nome. No, il numero, attenzione, ah, ecco. No, il numero. Ma è la stessa cosa, ragazzi, è la stessa cosa. No, assolutamente, completamente diverso. Come no, dai. Ma che se tu metti 4573 in molti paesi europei, attenzione, certo, non è che stiamo parlando di cose, il numero. Aumenta la professionalità. È vero. No, ma chi aumenta la professionalità? Bravi. Ma assolutamente no? Non certo. È così. Ma non è. Ma la polizia non è. Ma non sono impiegati normali, dai. Ma è un numero, dai. È come la targa. Scusami, è come la targa sulle macchine, è uguale. Quando comunque, fai hai visto che un poliziotto, un sindacalista vuole denunciare per abusi sessuali la ragazza Notav che ha dato un bacio al casco? Vabbè, ma lì siamo nel campo del fantastico. Questo è un momento molto concitato della storia della Repubblica. Ognuno fa il suo. Dimmi una cosa, ma tu ammetti che, è ammissibile un piccolo tasso di violenza sulla Notav contro il treno veloce? No, io penso che ci sia un movimento di massa che viene strumentalizzato anche abbastanza da una parte e dall'altra, ma è un movimento di massa popolare, è vero. Se la politica avesse dato ascolto maggiormente a quel movimento, forse oggi non saremmo in questa condizione. Vabbè, d'accordo, questo generalmente, ma secondo te sul cantiere si può usare violenza? È legittimo usare violenza sul cantiere? Ma no, io il cantiere non penso che debba usare violenza, né sul cantiere tanto meno. C'è il sabotaggio. No, io non penso che sia legittimo. È legittimo una lotta di massa in cui ci sono corpi di persone che si frappongono fra chi vuole lavorare nel cantiere e vuole fare, ma tutto lì. È la disobbedienza civile, queste sono cose. Ma queste qua sono cose legittime, è normale. Sono legittime, ma mica tanto, però mi sembra. Ma come attenzione. No? Come no? Sono legittime. E insomma. No, come no. Queste vengono fatte, va bene. Altre. Allora, Giovanardi ha detto: il proibizionismo ha salvato il mondo. La cannabis è scientificamente provato, fa i buchi nel cervello. Hai capito? No. Allora, il proibizionismo ha dannato il mondo, ha arricchito le mafie in una maniera esasperata, soprattutto negli ultimi anni. E le canne, non fanno bene. Allora, Giovanardi e Serpelloni, che è il nostro direttore. Ma le canne fanno un po' bene ogni tanto o no? Se Serpelloni te? Mi segnala un posto dove si trovano piante di cannabis, come dice lui, col 50% di tasso di THC, organizzo un pullman da Milano. Ma fanno bene ogni tanto non le canne? Non le sequestri, per carità. Fanno bene ogni tanto? È un discorso più delicato, certamente diciamo ai minorenni nessuna proposta di legge di quella in Parlamento autorizza l'uso, lo scambio di cannabinoidi. Perché, come dire, se vietiamo l'alcol ai minori di 18 anni non si capisce perché invece la cannabis la dovremmo autorizzare. Ciao Daniele, ciao, presto. Ciao, presto, ciao. Gianni da Terni, Gianni. Buonasera. Dimmi. Senta, io sono un artigiano, no? E sento dire sempre le solite cose ai politici. Io penso che se i politici vi ascoltano, la liberalizzano volentieri gli oppiaci, insomma, tutti questi stupefacenti, così almeno ci pigliano per il culo ancora meglio. Ma che c'entra questo? Era una piccola battuta, non c'entra niente. Io non si è capita però. No, lei non voleva dire niente perché abbiamo concluso. Ci sentiamo domani 18:30, la richiamo, come tutti gli altri, Alberto, Nicola, Silvio, Mario. A domani 18:30, ciao. Il grosso problema in Italia è che non si tromba più. Ma se lei le tolgono il microfono, non tromba più pure lei.